fossi io, viene lento di vagar, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io penso che di tante cose io possa essere accusata, ma non sicuramente di essere un passatista rispetto all'uso e alla fantasia nell'usare le nuove tecnologie per raccontare, informare, scoprire fonti e mettere in condivisione il proprio pensiero con quello altrui. Non mi piace autocitarmi, ma è da gli anni 90 che mi arrabatto a mettere insieme la cara vecchia antica radio con quelle che sono le nuove tecnologie per comunicare. Io ricordo quando a metà degli anni 90 appunto per la prima volta facevo un programma simile a questo a Radio Rai e cominciai a dar voce a persone che si muovevano in internet. Mi chiamò l'allora direttore della radio e mi disse: cos'è questa cosa di internet? Ma delle persone che comunicano attraverso il computer, si mandano dei messaggi tramite email. Allora nell'azienda pubblica i computer li avevano soltanto le segretarie per scrivere lettere ai dirigenti. I dirigenti nemmeno avevano un computer nella loro stanza. Il computer era una macchina da bieco lavoro di segreteria. Beh, gli anni sono passati, siamo molto attenti tutti all'evolvere delle nuove tecnologie, ma mi trovo questa mattina a un punto cruciale in cui io, che sono sempre stato considerato come uno degli osservatori attenti dell'evolversi delle macchine per comunicare, ho un momento di saturazione. Di fronte a cosa? Di fronte a notizie che empiono le pagine dei giornali, notizie che è sacrosanto raccontare, di cui è sacrosanto discutere, nulla è passibile di censura alla discussione. Però al centro, protagonista di queste notizie, vedo una di quelle che io chiamo le protesi emozionali, il telefono cellulare. Vedo alcune foto di ragazze Procace avvenenza che si fotografano con un cellulare nei gabinetti o di un palazzo istituzionale o di un albergo o di un bel identificato luogo in cui ci sono lavandini, bidet, asciugamani e asciugacapelli, e si fotografano con un telefonino, e quella foto è oggetto di grande attenzione e di grande interesse e di grande dispiego di energie informative. Vedo altresì una folla in tumulto lungo un grande viale della città di Teheran, e vedo un telefonino cellulare che riprende questa foto, questa folla in tumulto. Questi sono due episodi, entrambi appartenenti al nostro vivere quotidiano, l'uno riferito a cronache nazionali, locali, subcronache, racconti, pettegolezzi, deduzioni, ancora ben poche certezze, comunque hanno a che fare con qualcosa di molto pruriginoso, che quindi suscita sempre molto interesse, che comunque hanno alla base qualcosa che riguarda degli automatismi informativi, dei mezzi attraverso cui ciò che accade nella realtà senza filtro passa automaticamente nei ranghi dei grandi mezzi di informazione. Altresì, nell'altra notizia, vedo lo stesso mezzo, la stessa metodologia, però applicata alla necessità di far conoscere al mondo qualcosa che attraverso l'ufficialità dei mezzi di informazione, quindi una forte repressione nei confronti di un dissenso seguito a delle elezioni politiche, non si sarebbe visto. Ecco, su queste due realtà io vorrei fare una riflessione e vorrei fare un punto su quello che oggi ancora può essere inteso fare giornalismo. Una folla che ritrova la propria voce ed invade le strade per denunciare una rielezione, quella dell'ultraconservatore Ahmadinejad, che sta troppo di bruciato. La metà della popolazione iraniana ha meno di 25 anni e sa che ha votato per il cambiamento. Non è bastato al regime legare le mani alla stampa straniera, arrestare gli oppositori, bloccare i blog dei dissidenti e Facebook, Twitter e YouTube. L'Iran, appunto, è un paese giovane e gli hacker hanno saputo bucare la cortina di ferro. La repressione mostrata nei video amatoriali viaggia sul web, megafono dei rivoltosi, e mentre prima la Repubblica degli Ayatollah poteva mostrarsi compatta, ora la rivoluzione di Internet ha definitivamente svelato il suo vero volto. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno Gianluca, ciao. Andrea Rossetti, spesso nostro ospite, anche mio amico, ricordo, professore di filosofia e informatica giuridica all'Università Bicocca di Milano. In particolare tra le aree di suo interesse e di suo studio, la questione della privacy, la questione delle nuove tecnologie, il diritto legato alle nuove tecnologie e in questa ultima fase l'analisi di quanto in realtà queste nuove tecnologie comunicative siano un ancoraggio concreto con la realtà. Sì, abbiamo cominciato a fare questa analisi proprio in Bicocca, insomma, seguendo peraltro le ultime elezioni politiche. Abbiamo raccolto molto materiale, lo stiamo esaminando, però l'impressione che noi abbiamo è che in realtà l'impatto che le nuove tecnologie hanno sull'informazione è comunque sempre mediata dai media mainstream, cioè un fatto diventa davvero una notizia solo nel momento in cui viene ripreso dal Corriere piuttosto che da Repubblica, dal Sole 24 Ore, da un telegiornale, però di per sé la capacità di impattare di queste notizie sull'opinione pubblica, sulla sfera pubblica più in generale, abbiamo rilevato che è davvero bassa purtroppo, che è purtroppo, però davvero, almeno per il momento davvero bassa. Ecco, non trovi che sulle ultime vicende dell'Iran tutti siamo lieti e soddisfatti del fatto che abbiamo dei brandelli di realtà che riescono ad essere strappati alla grande macchina consueta della censura, soprattutto a certe latitudini e in certe situazioni politiche. Che però non ci sia una ipervalutazione entusiastica del fatto che Internet sconfigga il mondo dell'informazione. Internet non è già una realtà come il telefono, cioè come io faccio una telefonata a un giornale, racconto qualcosa, nella stessa maniera i dissidenti iraniani mettono in rete quello che possono mettere. Certo. Bisogna dire che in molti casi per adesso il potere istituzionalizzato ha sottovalutato l'impatto di queste tecnologie, però ad esempio in Cina, dove il potere non ha affatto sottovalutato questo impatto, si vede che la repressione è veramente capillare, perché è vero che Internet permette appunto a tutti di manifestare il proprio pensiero, di farlo circolare, però è anche vero che in rete nessuno è mai davvero anonimo. Di conseguenza, diciamo che per fortuna lì lo Stato non è stato abbastanza bravo, però ci sono strumenti tecnologici per bloccare completamente una rete. Questo è un dibattito che sta svolgendo in questi giorni in alcune mailing list molto specialistiche, però i tecnici sostengono appunto che bloccare una rete a livello nazionale è semplicemente un problema di costi, è molto costoso e molto difficile, cioè ci vogliono competenze tecnologiche elevate, però non è impossibile. Ecco, sentiamo un brandello di repertorio e vediamo anche quanto ciò che viene proclamato come una onda travolgente, innovativa, già alla luce della nostra esperienza quotidiana, sembri molto datato. Io vedo, quando faccio queste cose, l'espressione un po' sconcertata di quelli che hanno la mia età, sessantenni, che dicono: ma noi computer, cosa... Ha ragione, però no, la sua mente è viva, perché se lei è qua, vuol dire che è ancora curiosa di sapere le cose, se no non sarebbe in un palazzetto dello sport. Allora la sua curiosità la deve alimentare. Queste sono tecnologie che ci possono migliorare la vita se sappiamo usarle. Io ho un blog che mi fa lavorare, di giorno rispondo, vedo la gente che scrive, si instaura un forum di discussione su un argomento che metto io, c'è la conoscenza, gente che non riesce a pubblicare niente, lì c'è 50.000 persone che vengono a leggere le cose che sono scritte lì. Questa è una nuova forma di comunicazione. Ecco, non trovi, Andrea, sentendo Grillo, che questo risulti tutto un po' datato? Sembrava la grande onda travolgente, il giornalismo fatto dalla strada, lo spontaneismo, il cambio della politica, il cambio dell'informazione. Oggi, se io guardo su Facebook, sui social network, il senso di libertà, di fuga dalla censura, significa per molti riuscire a mettere per prime, non so, la dichiarazione della velina che racconta le sue notti di fuoco nei palazzi del potere e cose simili. Sì. Io spero che sia ancora in qualche modo una rivoluzione incompiuta, però quello che vediamo in questo periodo, quello di cui ci siamo resi conto, è che in realtà appunto il web con i contenuti unicamente generati dagli utenti è un po' un'utopia. In realtà i giornali, e io direi anche i giornalisti, continuano ad avere una funzione fondamentale in selezione delle notizie e per portare queste notizie all'attenzione dell'opinione pubblica. Il web come appunto insieme di notizie date dal singolo cittadino per adesso è davvero un'illusione. Gli studi si domandano attualmente, sono le ricerche soprattutto in America, sono concentrate sulla domanda se è appunto è semplicemente un momento iniziale e poi si svilupperà, oppure intrinsecamente in realtà le persone fanno un uso di questi strumenti che non ha niente a che fare con l'informazione. Allora, grazie Andrea Rossetti, 800 24 00 24. La domanda che pongo è molto semplice: esistono secondo voi ancora delle regole, dei canoni? Esiste un mestiere per cui l'attività giornalistica ha pieno rango e diritto di esistenza? Oggi tutti possiamo essere giornalisti, purché abbiamo un telefonino, purché abbiamo un accesso alla rete, purché abbiamo un blog, purché abbiamo grande voglia, grande desiderio di raccontare noi stessi. Lecito diritto di ognuno raccontare se stessi, ma dove finisce, qual è la linea di demarcazione fra il racconto fine a se stesso e il racconto di lasciare traccia comunque nella storia? 800 24 00 24. Buonasera. Rivendicato dalle Brigate Rosse l'attentato a Indro Montanelli, ferito questa mattina a Milano da 4 colpi di pistola. Migliora Vittorio Bruno, vice direttore del Secolo XIX di Genova, ferito ieri sera in un altro attentato dei brigatisti. Ho 4 pallottole, ma insomma le ho nelle gambe, quindi spero che non ci siano guai grossi, ecco. Montanelli, lei è in prima linea da molto tempo, è un giornalista di barricate, se l'aspettava un esito di questo genere? No, non è che me l'aspettavo, ma l'avevo messo nel novero delle possibilità. Quando si fa questo mestiere in un certo modo, bisogna mettere in bilancio questi incidenti. Mi è andata ancora bene, sono ancora vivo, parlo. Quando riscrive il prossimo articolo? Oh, credo fra pochissimo, ma non per parlare di questo. Era il giugno del 77 e Indro Montanelli fu preso a revolverate. Il giornale per cui scriveva nemmeno scrisse il suo nome, disse un giornalista è stato colpito da un attentato, che era allora il Corriere della Sera. Una foto storica di Montanelli seduto in un angolo, tranquillo, un signore già che aveva una certa età, con le gambe impiombate, perché faccia il giornalista. Ora non voglio dare nessun taglio ideologico a questa trasmissione, voglio riflettere sul fatto che soltanto qualche decennio fa i giornalisti che facevano il loro mestiere, quindi scrivevano a loro rischio e pericolo quello che loro ritenevano giusto scrivere, rischiavano di essere presi a revolverate. Perché dico questo? Perché questa mattina vorrei fare un salto indietro. Una volta tanto, io che sono sempre stato curioso di vedere quello che c'è oltre la linea di demarcazione della realtà, voglio fare un passo indietro e riosservare, rivalutare quelli che sono i fondamenti del mestiere di raccontare. Ho in mano un libro, Gli anni del piombo, non tanto gli anni di piombo, ma gli anni del piombo, in cui i giornali erano composti attraverso caratteri di piombo. L'Italia tra cronaca e storia, che è un libro scritto da Mario Cervi e Luigi Mascheroni. Luigi Mascheroni è un giornalista del giornale e anche docente di linguaggio giornalistico all'Università Cattolica di Milano. Mascheroni, buongiorno. Allora, Mascheroni, tu hai 40 anni, quindi appartieni alla generazione dei giovani giornalisti. Esatto, e l'idea di farmi raccontare da un decano del giornalismo, uno di quelli che io considero uno degli ultimi grandi vecchi del giornalismo italiano, che cosa ha significato fare giornalismo nell'epoca d'oro, insomma, dal dopoguerra in avanti, e cosa ancora significhi oggi fare giornalismo, in qualche modo credo può rispondere alla domanda che tu hai posto, cioè che senso ha questo mestiere, come si fa questo mestiere, e indirettamente risponde anche, io credo in maniera negativa, alla domanda basta un telefonino, basta un blog per fare questo mestiere, per fare giornalista, per raccontare il mondo. Io non sono così sicuro che basti un telefonino, basti un blog o bastino le nuove tecnologie. Possono aiutare, ma non certo, difficilmente, come dire, aiuteranno il racconto dei fatti a entrare nella storia. Quelli che ha fatto Mario Cervi come giornalista fin dal 45, appena finisce la guerra, quando entra al Corriere, fino ancora oggi, quando ha 88 anni di età, detta i pezzi a braccio al pomeriggio per il giorno dopo, molti di questi sono entrati nelle pagine nell'antologia del giornalismo e della storia, perché dietro c'era un modo di fare il giornalismo, un modo di fare questo mestiere sicuramente diverso, che esigeva non solo la velocità nel dare la notizia, ma anche un certo modo di raccontarla. Senti, come si scappa, Mascheroni, dall'accusa che viene fatto a chi fa in questo momento discorso come quelli che stiamo facendo noi di difendere una sorta di diritto di casta. Io ho avuto aspri dibattiti con le classi dei blogger, ma proprio perché si sentivano sorpassati addirittura a sinistra, che da me, che giudico questa maniera un po' raffazzonata, molto autoreferenziale, senza naturalmente poi essere mai messi in gioco con la responsabilità che si ha quando si scrive qualcosa, se ne risponde sotto tutti i profili. Guarda, il punto è proprio questo. Ti faccio un esempio che non si lega immediatamente alla storia o al modo di raccontare la cronaca come generalmente si intende, ma può servire per come esempio a quello che voglio dire. Io ho lavorato per anni in cultura e ho capito, quando proprio si celebrava l'idea dei blog di internet come il vero luogo dove si poteva parlare di libri e fare davvero critica letteraria libera dalle cosiddette camarille, dalle cosiddette casta del giornalisti che sono nello stesso tempo scrittori e critici eccetera, bene, ho visto lo sviluppo e l'esplosione di questo modo di fare giornalismo letterario in rete e mi è bastato pochissimo per capire che al di là delle accuse di casta, di camarille, di interessi personali che affondano diciamo anche in alcune ragionevolezze queste accuse, hanno mille ragioni di essere, ma al netto di tutto ciò il giornalismo che si fa, la critica letteraria che si fa e la cultura che si fa sulla carta stampata ancora, pur con tutti i suoi limiti e i suoi vizi, una sorta di dignità del mestiere che, mi spiace, nella stragrande maggioranza dei casi la critica letteraria in rete non ha, perché nel 90% dei casi si trasforma in pure impressioni personali, cioè mi è piaciuto questo libro o non mi è piaciuto, che non è esattamente quello che si intende essere critica letteraria. Spostando questo discorso dal campo culturale a quello della cronaca, ecco, si può quasi dire la stessa cosa. Quello è il giornalismo, un bruttissimo mestiere, lo sappiamo tutti, pieno di vizi, siamo approssimativi, siamo superficiali, siamo spesso inutilmente professorali, noiosi, mille difetti. Però quando è fatto con una certa dignità, e secondo me, per tornare all'argomento del libro, Mario Cervi l'ha fatto per oltre 60 anni con una grandissima dignità, beh, questo è un signor mestiere ancora, questo può davvero raccontare il mondo. Insomma, guardate che oggi è più facile trovare la verità, faccio il primo esempio che mi viene in mente, su il golpe del 73 in Cile, raccontato da Cervi e da quell'altro unico giornalista italiano presente alla Moneda quando c'è il golpe, piuttosto che i manuali, la stragrande maggioranza dei manuali di storia, dove ancora. Beh, Mascheroni, visto che lo abbiamo in collegamento, facciamo parlare Mario Cervi. Mario Cervi, buongiorno. Buongiorno, scusate sia tu sia gli ascoltatori se non sento bene, perché io sono un po' sordo e forse un po' è eufemistico. Però noi ti sentiamo bene, quindi puoi senz'altro, da quello che hai sentito, se sei riuscito a sentire tutto, facci un punto di come è iniziata per te la professione, perché ci interessa capire quelle che erano le vecchie antiche regole e metodologie e sistemi per fare il giornalista. Oggi sono dimenticati, molte volte ci si ride sopra, ma al tempo come si faceva il mestiere, come si entrava a fare il mestiere? Sì. Dunque, io sono entrato al Corriere, come spiego in questo libro, come succede agli italiani in tutti i casi, per raccomandazione, in questo senso che mio padre era amico di uno stenografo del Corriere, siccome la guerra appena finita cercava il Corriere dei ragazzi per fargli fare le mansioni più umili, quelle del reporter, perché allora il reporter raccoglieva le notizie e poi le comunicavano agli estensori che le mettevano in buon italiano, almeno si supponeva che lo facesse. Quindi sono entrato così e il Corriere di allora, ecco, se posso dare una definizione molto rapida dell'ambiente del Corriere di allora, che era la cattedrale del giornalismo italiano, ecco, quei giornalisti da una parte confinavano con la Bohème, perché allora c'erano i giornalisti che facevano le ore piccole, perché i giornali andavano in macchina molto più tardi, stavano nella questura. Sì, questa figura romantica e maledetta del giornalista che non aveva moglie, non aveva figli, non aveva famiglia. Il giornalista un po' anche a volte un po' dalla vita privata anche un po' disordinata, magari questi, la Bohème. Dall'altra parte confinava con la letteratura, cioè al Corriere della Sera collaboravano dei nomi. Tu pensi oggi che paradosso che i giornalisti in realtà sono stati demoralizzatori e accusano il palazzo di Bohème, o perlomeno vanno a mettere il ditino nella Bohème ufficiale? Però Credo che adesso la medianità, non voglio dire la mediocrità perché sono quelli che fanno i giornali, poi la medianità sia più grande di quello che fosse allora. 80024 0024, stiamo parlando e facendo un punto sul giornalismo. Io ho ammesso che vorrei parlare di vecchio giornalismo una volta tanto, perché mi sono un po' saturato delle meraviglie del web 2.0, pur avendolo praticato e continuandolo a praticare in maniera massiccia. Prendo l'occasione per parlarne con gli autori di un libro, Gli anni del piombo, edizione Mursia, L'Italia tra cronaca e storia, scritto da Mario Cervi e Luigi Mascheroni. Abbiamo al telefono però Tiziana. Tiziana, buongiorno. Buongiorno. Io intervenendo nella discussione, anche se ha preso una piega magari già più culturale, diciamo, rispetto... Ma lei può ripiegare la piega? La piega è sempre passibile a ripiegamenti continui, se no è radio questo. Dire, non c'è un palinsesto. Sì, ma dica quello che vuole dire. Il vecchio giornalismo, al vecchio giornalismo gli diamo tanto di cappello, perché il vecchio giornalista lavorava con la passione, sacrificando la famiglia, sacrificando... Ma gli dava anche gusto, guardi, era un gran piacere sacrificare la famiglia. Poi dopo... Per un ideale, ma perché tutti i lavori devono essere fatti con la passione, sempre, no? Mm-hmm. Altrimenti siamo degli insoddisfatti, altrimenti siamo dei venduti, no? Perché lo facciamo solo per denaro. Diciamo che si avvicinava molto a un mestiere quello che faceva una volta il giornalista. Poi abbiamo certo. Mario Cervi, che è un decano di questa disciplina, ce lo racconterà. Diciamo che se il giornalismo oggi ha perso di dignità. Sì, ma può dirlo tranquillamente, la parola giusta. È una cartina di tornasole che è sempre valida, nel senso che il lettore, quando si accorge che quello che leggiamo, quello che loro scrivono, non corrisponde alla realtà, di conseguenza poi c'è un fiume, no, di persone che vanno su internet a cercare la notizia, che poi dovrà essere verificata. Che è fonte di realtà internet, secondo lei? Non so, lo domando, per sapere la sua opinione. Fonte di realtà, sì, per me sì, nel senso che per esempio noi abbiamo letto mesi fa delle proteste nei campi all'Aquila, sapevamo già com'era la situazione, può darsi che era qualcuno che scriveva per dire, insomma, far delle critiche al governo, o che però comunque le leggiamo tutte. Sì, io non porrei però soltanto il giornalismo inteso come ossequio a chi comanda nel momento e l'antigiornalismo soltanto di dire piove governo ladro, perché l'abbiamo visto in prima parte tutto il fenomeno del blog di Grillo, del grillismo, poi da un punto di vista politico non è che abbia poi sortito a realtà concrete. Io potrei oggi lanciare una crociata in internet su qualsiasi antagonismo possibile, troverei un'infinità di persone che sottoscriverebbero questa campagna, poi da lì a fare una concreta azione politica ce ne passerebbe, perché il popolo della rete è un popolo che ama partecipare alla passione attraverso la propria tastiera, ma finisce lì. E poi il giornalismo deve essere, secondo lei, il giornalista un capopopolo, un colui che indice delle battaglie, no, o semplicemente racconta quello che accade? Il giornalista dovrebbe essere un'ombra, dovrebbe essere l'ombra della verità, questo dovrebbe essere. O di una sua lettura della verità, perché la verità in assoluto è qualcosa certo, di talmente impalpabile certo. Che non oserei nemmeno toccarla. Deve essere onestamente e chiaramente dire: io guardo così la realtà e questa è la mia verità, dando tutti gli elementi poi per interpretarla. Grazie Giulio, buongiorno. Buongiorno. Giulio, 27 anni, pubblicista e anche blogger. Sì, allora io volevo appunto portare il mio contributo alla discussione, perché forse può essere utile, diciamo, per quella che è la mia piccola esperienza. Diciamo che io credo che ci sia comunque la necessità ancora nella nostra società di avere i giornalisti e di avere anche, non dico necessariamente l'ordine dei giornalisti, ma un modo di accesso a questa professione che sia comunque garanzia poi per i cittadini, per quelli che vanno a leggere il giornale o usufruiscono dell'informazione, del fatto che ci siano persone competenti dall'altra parte a curare l'informazione. Non credo nella verità assoluta di internet, però credo che si stia verificando un problema, insomma. Io vedo anche tra i miei colleghi e tra i miei coetanei molte persone che alla fine rinunciano a questa strada perché è una strada senza garanzie, senza tutele, con delle paghe tra virgolette da fame. Conviene di più lavorare in un call center e quindi alla fine ci si rivolge ad altre strade, e credo che questo sia penalizzante poi anche della qualità finale dell'informazione che arriva agli utenti, perché molto spesso si vanno a garantire posti di lavoro semplicemente grazie a meccanismi di clientela, diciamo, di appartenenza politica. Questo è un problema serio, secondo me, anche perché getta poi discredito sulla categoria. Un'altra Cervi, che fra un po' parlerà, ha ammesso che anche lui è entrato con una raccomandazione. Io non voglio fare la verginella. Io ho iniziato a fare questo mestiere fingendo di avere uno zio arcivescovo, che non avevo, se no non avevo altre possibilità. Quindi come si entra, l'importante poi è la tenuta, l'importante è la traccia che si lascia di se stessi. Mario Cervi è in linea? Sì, sono qui. Hai sentito il giovane collega cosa diceva? Sì, ho sentito non tutto esattamente. Ecco, il problema... chiedeva che ci fosse competenza, che esattamente ci fosse professionalità. Ecco, io devo dire questo, e che quindi fossero filtrati coloro che scrivono sui giornali, in maniera che scrivessero essendo preparati, diciamo così. Ora, io sono molto perplesso, anzi sono contrario a questo, nel senso che sui giornali scrive chi è accettato dai giornali. Ci sono moltissimi collaboratori che non sono giornalisti, non sono iscritti all'ordine dei giornalisti, non hanno la qualifica professionale di giornalista, però scrivono autorevolmente sui giornali, e ci sono sempre stati in passato e anche adesso. E come si fa a bloccare, a impedire che scriva sui giornali uno perché è un dilettante, diciamo così? No, io non sono favorevole a questo tipo di filtro, a questo tipo di sbarramenti. Mario, com'era la scuola di giornalismo ai tuoi tempi, quando tu hai iniziato? Oggi esistono le università che insegnano giornalismo, i docenti. Allora come si imparava il mestiere? Credo che allora si imparasse il giornalismo frequentando i corridoi dei giornali. Io poi sono entrato, come ho detto, subito, perché ho avuto la fortuna, sono stato fatto entrare subito al Corriere, sia pure nei piani bassi. Ma allora però quelli che avevano la vocazione, avevano questa grande voglia di fare il giornalista, battevano i corridoi dei giornali, e allora i giornali accettavano che ci fossero questi volontari, diciamo così, li mettevano qualche volta alla prova, e poi se davano buona prova li assumevano. Poi è successo che qualcuno di quelli lì ha fatto causa ai giornali dicendo: ho battuto i corridoi tanto tempo, mi sedevo alla scrivania, facevo qualche lavoretto, quindi ho diritto di essere assunto. E da quel momento i giornali non hanno più tollerato questo volontariato, quindi c'è stato un inaridimento anche di questa. Era anche un po' crudele questa trafila, perché c'era gente che per anni stava in anticamera e non entrava, però era anche un tirocinio molto duro. E chi ne usciva di solito, a parte che fosse figlio di parente di o raccomandato da, purtroppo ce n'erano tanti di quelli, ma chi riusciva invece con i suoi meriti ad affermarsi, voleva dire che valeva qualcosa. Senti, l'accesso, il controllo e la garanzia delle fonti, nel giornalismo della carta stampata, il giornalismo ancora del piombo, di cui racconti, attraverso cui racconti l'Italia nel tuo libro. Ecco, come era gestito? Oggi si apre un motore di ricerca, si apre un motore di ricerca, si guarda in internet, le fonti sono a disposizione di tutti. Voi invece come facevate a raschiare e grattare le notizie? Quali erano? Ognuno aveva i suoi metodi personali e particolari, ognuno era geloso delle sue fonti, o c'erano possibilità diffuse al di là delle agenzie di stampa di andarsi a cercare le notizie? Da cosa si vedeva la qualità di un giornalista? Ma bisogna distinguere tra, diciamo, la cronaca e le notizie, invece chi in redazione passava le notizie che arrivavano dall'estero o i corrispondenti dall'estero, i giornalisti poi che scrivevano su cose estere in una gerarchia che i giornalisti stessi avevano creato, venivano ritenuti più importanti di chi scriveva di cose locali, invece sono più importanti le cose locali. Ecco. Allora si andava, si lavorava anche di, si camminava, si andava nei commissariati, dico nelle cronache locali, si andava nei commissariati, si andava in questura, si andava negli ospedali o si telefonava, però era tutta una cosa fatta, era un lavoro artigianale, ecco, molto artigianale, senza quella massa di notizie che adesso piombano sulle redazioni. Era un lavoro molto artigianale, molto, molto paziente, molto faticoso. Quando stavi all'estero, tu hai fatto anche reportage importanti da paesi in situazioni critiche. Come facevi a mandare le notizie? Oggi noi che siamo abituati a aprire una casella di mail e mandare un'email, non riusciamo a capacitarcelo forse. Non ho capito, scusate. No, come facevi a mandare le notizie quando ti trovavi in un paese che magari c'era una situazione critica, senza internet? Sì, questo era il tormento dei giornalisti allora, degli inviati soprattutto, era il tormento, cioè io ho trascorso molte ore della mia vita, poi dal punto di vista fisico forse non mi hanno nuociuto nemmeno tanto perché sono riuscito a sopravvivere, ma molte ore della mia vita, signorina mi dà la linea, sono 4 ore che aspetto, il giornale vuole avere le notizie, mi va implorando le centraliniste, dando dei regali alle centraliniste perché facessero in modo che si potesse comunicare col giornale, che era il grande obiettivo allora. Ma questo succedeva ai primi tempi, quando ho cominciato a fare il giornalista, anche con le notizie, anche per parlare con Catanzaro, non solo per parlare con Bombay o con paesi remoti, no, per parlare in Italia, con altri posti in Italia, quindi era una fatica fisica, ecco, direi che era una grande fatica fisica, quella di avere la comunicazione. E lì sì, c'erano anche i piccoli sotterfugi, uno che cercava d'avere dalla centralinista o dal centralinista quel favore dandogli la mancia, sai, tutte queste cose. Questo dà l'idea di una grande artigianalità del mestiere. Luigi Mascheroni, solo una battuta, poi diamo la linea all'informazione del traffico. Te che sei nella generazione di mezzo, come vedi questo mestiere basato anche su un'arte di arrangiarsi? Oggi trasmettere una notizia è la cosa più facile del mondo. Averla probabilmente è altrettanto facile, ma avere un'eccellenza nel dare una notizia è praticamente molto difficile. Sì, questo è cambiato molto. Forse oggi, come dire, la passione, io credo che chi fa davvero questo mestiere è rimasta la stessa. Le tecnologie sono cambiate, aiutano molto e evitano queste lunghe attese al telefono per avere la linea e dettare il pezzo. Forse il rischio è che la categoria, se al netto delle eccellenze che sempre esistono, si è un po' trasformata, un po' scaduta sul lato impiegatizio, si è un po' più attaccati alla poltrona, ci si muove un po' di meno, ci si impigrisce di più sia a cercare le notizie sia anche a raccontarle. All'epoca, rileggendo alcune, senza bisogno di andare a prendere i grandi reportage, ma anche i vecchi racconti, le cronache dei processi di una volta, rappresentavano, non dico la letteratura, ma quasi l'etica. Adesso siamo un po' più banalizzati. Adesso arriva un bel CD in busta e il giornalista può tranquillamente trascrivere tutto quello che vuole. Melog 2.0. Il giornalismo ha smesso di fare il giornalismo d'inchiesta. Una volta nel giornalismo ci interessavamo delle fabbriche, delle banche, di tutto, vedeva male e lo dicevamo. Adesso ci hanno detto, la pubblicità ci ha detto che è meglio star zitti, e il risultato è questo, che siamo arrivati a questa crisi totale, quelle di oggi sono l'80% delle bugie, quindi l'80% di quello che chiamano il chiacchiericcio, le cose mondane. Insomma. Per capire qualcosa dovevi comprare 5 giornali. Allora, leggendoli tutti, la verità veniva fuori. Ma siccome ognuno tira l'acqua al suo mulino, se ne leggi solo uno, non basta. Fare il giornalista, oggi è difficile dire il giornalista. Ci sono tante specialità. Se uno si occupa del giardinaggio, può farlo benissimo. (ride) 800 24 0024, questo era Giorgio Bocca, ospite della trasmissione di Fabio Fazio, che parlava del giornalismo dal suo punto di vista. Abbiamo fino a un istante fa sentito Mario Cervi, Luigi Mascheroni, che hanno scritto Gli anni del piombo, un libro dedicato all'Italia raccontata dai giornali quando i giornali ancora erano fatti all'antica. La mia riflessione su quanto finora stiamo dicendo è che è molto difficile trarre poi una formula conclusiva. Oggi siamo divisi, lacerati tra quello che è il culto e il rispetto per i padri fondatori, che hanno la loro epopea, hanno il loro racconto, la storia delle difficoltà che hanno permesso loro comunque di raccontare con coscienza, con tutti i limiti che poi offre la natura umana, naturalmente, la storia di un paese. Allo stesso tempo un culto altrettanto forte che molte volte arriva nella gloriosa ipervalutazione per le nuove tecnologie, quasi fossero le tecnologie a poter dare la chiave di lettura della realtà. Le tecnologie alimentano semplicemente la semplicità di accesso alle fonti, rendono ognuno editore e pubblicista allo stesso tempo. Chiunque può aprire un sito, un blog, può avere il luogo in cui rappresenta se stesso, ma questo ha un peso, racconta qualcosa di nuovo. La logica del copia e incolla, in cui tutti possono prendere, ricomporre, toglie specificità, toglie unicità. Oggi i giornali sembrano molte volte fatti con la fotocopiatrice, se non fosse per alcuni rari punti di vista di opinionisti. Beh, sentiamo qualche nostro ascoltatore che fa parte comunque della categoria di chi fa il giornalista, vorrebbe fare il giornalista. Marco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sì, sono Marco, sono un pubblicista iscritto all'Ordine del Lazio e del Molise, ho 33 anni. No, mi dispiace intervenire dopo questi mostri sacri. No, comunque... Ma i mostri sacri mi credono far paura, i mostri sacri servono proprio per farci capire la realtà. Certamente. No, io ho tanto di cappello per il giornalismo classico, appunto io stesso sono un assiduo lettore quasi quotidiano, per esempio della Repubblica e a volte del Corriere della Sera. È vero che non bisogna prendere per oro colato quello che si legge sui vari blog 2.0, YouTube, ma nemmeno quello che si scrive sui giornali, nulla va preso per oro colato. Esattamente, e non solo, ed è innegabile che comunque la rete è stata la luce dell'informazione, cioè una rivoluzione storica, in quanto secondo me fino a 10 o 15 anni fa il cittadino comune doveva prendere per buona l'informazione che gli veniva dai classici organi di stampa e televisivi, mentre oggi per chi ne avesse voglia può riscontrare in modo molto più variegato qualsiasi tipo di informazione, cioè nel senso che diciamo ha più fonti a disposizione. Io non penso che la ricerca della verità è un cammino faticoso e periglioso, e si fa perdendo tempo a confrontare e collazionare le tante fonti a disposizione. Oggi ci vorrebbe molto più tempo di quello che era necessario forse soltanto 10 anni fa, diciamo questo. Esattamente, però appunto ha la possibilità di farsi un'idea molto più personale, molto più accurata, andando a verificare da più parti, anche nel breve tempo possibile, le informazioni che girano, anche se bisogna stare appunto molto attenti a ciò che come dice lei, poi anche i giornali non ci tutelano da una vera informazione, specie oggi in cui in questo momento... Guardi che è la vita in assoluto che non ci tutela mai dal dubbio di fronte a ciò che vediamo, ma mi sembra, io almeno la mia lettura, che il medio cittadino italiano è sufficientemente corroborato da quei giornalini che trova la mattina nella metropolitana, sono poche pagine ma hanno già l'essenziale per lo scambio quotidiano sull'attualità, di battute, di impressioni. Quelli sono già più che sufficienti, non dico che lo siano in assoluto, ma nella percezione comune quelli già basterebbero. Da quel passo in su significa fare uno sforzo personale pari alla propria volontà di capire la realtà che ci circonda. Claudio, buongiorno. Buongiorno, sono Claudio Luparelli, parlo da Lecce. E io volevo dire una cosa un po' importante, in poche parole, se parlo nei paesi dove c'è la democrazia vera, i giornalisti sono in grado di far cadere qualsiasi governo. Perché in poche parole l'opinione pubblica, dopo un po' che legge gli stessi giornali, si fida di quello che loro dicono. Anche se poi alcune cose sono bufale, si fida e quindi rimangono tutti quanti ansiosi di vedere come va a finire, se cade, se non cade. Poi sta diciamo all'opposizione se è in grado di spingere. Sì, ma lo scopo del giornalista è far cadere i governi. Cioè io ho una visione un passo indietro rispetto a questo. Il giornalista dovrebbe raccontare, se possibile, le notizie che lo circondano, che lui si va a trovare. Far cadere i governi può essere una conseguenza, non può essere lo scopo del giornalista. Io non faccio il giornalista per far cadere i governi. Non è, questo già mi metterebbe in una collocazione di qualcuno a cui alcuni governi stanno bene e altri no. Non credo che sia esattamente questa la funzione del giornalista. Mario Cervi, cosa ne dici di questa lettura che io sento fare molto spesso? Nei luoghi in cui c'è vera democrazia e i giornalisti fanno cadere i governi. Tu che ne hai visti tanti di governi. Cosa ne dici della... No, di questa lettura di questo ultimo ascoltatore. Dice: nei paesi dove c'è vera democrazia i giornalisti fanno cadere i governi. Ecco, tu che hai visto tanti governi e tanti giornalisti, cosa ne dici? Se un giornalista si propone di far cadere i governi, allora già fa un altro mestiere, ecco, fa il mestiere del propagandista politico o dell'agitatore politico o del politico, ma non è più, il giornalista deve registrare, se lo so che è un ideale irraggiungibile quello della imparzialità, so anche che in generale i lettori o comunque i fruitori dell'informazione, per usare un termine di questo genere, ritengono imparziale quel giornalista che scrive quello che pensano loro, ecco, e allora se invece scrive cose un po' diverse che divergono da quello che pensano loro, diventa imparziale, lo so, però il giornalista deve mantenere un distacco dalla politica. Infatti io ero d'accordo perfettamente con Montanelli quando disse che era stato un errore candidare due nostri giornalisti di rilievo, che erano Zappulli e Bettiza, in Parlamento dove furono eletti. Poi disse successivamente: abbiamo sbagliato, e io credo che avessimo sbagliato allora, perché il giornalista che entra in politica di per ciò stesso abdica, a mio avviso, all'essere veramente giornalista, perché è talmente condizionato dalla politica che non può più, nemmeno quando normalmente gli sarebbe stato possibile, non può più esprimere liberamente il suo pensiero, perché deve pensare: ma cosa dirà il tale, cosa dirà il tal'altro. Ecco, secondo te oggi, ultima domanda, ultima battuta nei pochi secondi, il giornalismo italiano è molto legato invece all'attività politica? Chi? Il giornalismo italiano? Sì, direi che il giornalismo italiano è molto legato al palazzo, ecco, e quindi non si pone, purtroppo, ecco, questo è il mio parere, non si pone come antagonista la politica, cioè non affronta i politici, non si pone davanti ai politici come in sostanza un avversario che vuole metterli in imbarazzo, ma si pone molto spesso, troppo spesso, come un collaboratore, e questo non dovrebbe essere. Grazie Mario Cervi, grazie anche a Luigi Mascheroni, che assieme a Cervi ha scritto Gli anni del piombo. Sappiamo che non si danno mai risposte esaustive, sappiamo che questo argomento non può essere certo risolto in una chiacchierata di un'ora scarsa, ma noi almeno abbiamo provato a metterlo sul tavolo. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.